Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sempre, alcune rapide informazioni di servizio. La mail, un abuso al giorno, @radio24.it e il nostro sito radio24.it, dove potete trovare anche il mio blog Guardie o Ladri e interloquire quindi con me. Come sapete, mi occupo spesso di criminalità organizzata in radio, nel Sole e anche nel mio blog, spesso e volentieri affrontando i temi della Calabria. Oggi lo facciamo ancora una volta qui in radio, affrontando, diciamo così, la parte più nobile e poi vedremo, ahimè, anche disgustosa della presenza / assenza dello Stato quando decide di sottrarre, sequestrare o confiscare beni alle cosche. Bene, può accadere che, nonostante i continui sequestri, le continue confische di questi beni, ci si possa trovare in una situazione paradossale, quella per la quale gli istituti di credito, le banche, girano le spalle agli amministratori giudiziari, cioè quelle persone che sono chiamate a portare avanti l'impresa e l'azienda invece di coloro i quali fino a quel momento la detenevano, ma persone sicuramente non di specchiata moralità. Sono mafiosi, sono criminali, sono persone alle quali lo Stato decide di togliere quei beni. Accade quindi che le banche girino le spalle, e accade in realtà anche molto molto di peggio, vale a dire accade che passi un principio di un concetto devastante, quello per il quale si dica: ma vedi, poi alla fine questi beni, quando non li gestisce la mafia, la camorra, Cosa Nostra, l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita, finiscono per fallire, era meglio quando c'erano loro. Questo, non c'è niente di peggio di un messaggio come questo. Allora, purtroppo, testimone di questa triste realtà lo è una persona che noi abbiamo chiamato volentieri a dialogare con noi, Domenico Larizza, amministratore di beni confiscati alla 'Ndrangheta, delle cosche dell''Ndrangheta in Calabria, in posti simpatici quali ad esempio Rosarno. Dico simpatici ironicamente perché Rosarno è una città permeata dalla cultura mafiosa, sapete, di boss e di famiglie pesantissime in quella zona, pesce bellocco con ramificazioni in tutta Italia, a partire, recentemente si è scoperto, Bologna. Allora, per parlare di questo do il buongiorno a dottor Larizza e do il buongiorno ad Alberto Cisterna, già nostro ospite, amico, sostituto procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia. Buongiorno a voi tutti. Allora, partiamo da lei, Larizza. Parliamo di questa cosa paradossale raccontata da Repubblica e dall'Avvenire, con una bella inchiesta del collega Attilio Bolzoni, che è stato il primo a parlarne, che ha titolato "Calabria senza boss si fallisce, niente credito alle società confiscate". Allora, parliamo dello Stato che gira le spalle ad altri pezzi dello Stato, perché lei comunque rappresenta un'amministrazione giudiziaria per conto della società, per conto quindi dello Stato, e parliamo anche di questi benedetti istituti di credito che, quando c'è un boss che accende l'insegna, sono bravi ad erogare; quando quel boss se ne va, magari quell'insegna la fanno chiudere. Prego, Larizza. Diciamo, in linea di massima il messaggio è questo. Secondo me va chiarito però meglio. Prego. Nel senso che nel momento in cui interviene un provvedimento di sequestro, ancora l'azienda mafiosa non è, nel senso, certo, che vi è un sospetto di mafiosità, ma ancora non c'è nessuna certezza. Il problema che io sollevo è un problema di carattere assolutamente generale, e che lei ha espresso bene nel messaggio veramente paradossale ma grave, che poi passa, che passa da bocca in bocca, e che poi ci si convince un po' tutti che è così, cioè che quando queste imprese sono imprese date ai, diciamo, imprenditori privati, funzionano; nel momento in cui arriva lo Stato, alcune di queste smettono di funzionare, perché io scrivo che tutto d'un tratto perdono la loro solvibilità, le loro garanzie, perdono tutto quanto. Certamente, ecco, lei dice scrivo perché ricordiamo ai nostri radioascoltatori che, onore al merito, la prima denuncia in realtà è venuta da un giornale locale, il Quotidiano della Calabria, che ha ospitato un lungo articolo di Domenico Larizza. Prego, Larizza. Sì, appunto, va chiarito subito questo. Certo. Questo qui. Ecco, ma Un messaggio devastante lo lanciano però anche le banche, perché nel momento in cui decidono di chiudere i rubinetti, che magari fino al giorno prima aprivano volontariamente, a me sembra di una gravità assoluta questo. Quello che io sottolineo nell'articolo che è stato pubblicato, diciamo nella lettera che io scrivo al quotidiano principalmente, è il fatto che ciò che si percepisce è che le banche il giorno prima si sentono garantite dalla meritevolezza propria dell'impresa, cioè basata sulla base degli indici di bilancio, basata sulla base dei numeri che l'impresa riesce a produrre, e il giorno dopo, nel momento in cui questa impresa passa di mano, perché il provvedimento di sequestro produce questo, un passaggio di mano dell'impresa nel suo management o nella sua proprietà, immediatamente i numeri non bastano più per le banche. Allora, quello che io dico, i criteri devono essere univoci prima e dopo. Assolutamente. Se l'impresa era meritoria prima, allora lo deve essere. Lo deve essere anche dopo. Allora, altro aspetto inquietante di questa vicenda, ovviamente questo lo dico io perché so che la riservatezza di Larizza non lo porterà a esprimersi, però ve lo voglio dire, cari radioascoltatori, accade che siccome Larizza è una persona onesta, è un uomo libero, denuncia queste cose, c'è qualcuno nel Palazzo di Giustizia, al CEDIR, centro direzionale di Reggio Calabria, che lo chiama a testimone e dice: oh, oibò, ma insomma tu dici queste cose, ma allora si interrompe il rapporto di fiducia. Non lo chiedo a Larizza perché so che non può rispondere, perché attende adesso il provvedimento, lo chiedo a Cisterna, ma non è paradossale tutto questo? Beh, guardi, che sia paradossale è nei fatti, tant'è che è finito sui giornali nazionali e locali, cioè certo. Il paradosso è del tutto evidente. Il problema vero di questa storia, che è una storia antica, cioè io ricordo che di aver letto che era il 1978 quando un procuratore della Repubblica entra in una banca di Reggio Calabria, acquisisce un fascicolo di quella banca relativo a un boss dell''ndrangheta calabrese, e nel fascicolo trova un foglietto con la scritta soggetto notoriamente affidabile e circondato di buona stima, perché era l'attestazione che la banca dava che quel capomafia poi ucciso era una persona liquida e solvibile. In questa certo. Ragione, dottor Larizza, finché le imprese sono nelle mani dei mafiosi hanno un credito che non è soltanto il credito mafioso, ma è proprio il credito vero, cioè hanno accesso ai finanziamenti, naturalmente nessun fornitore si lamenta, nessuno fa decreti ingiuntivi, nessuno pensa a protestare assegni, e queste imprese sono apparentemente floride. Certo, sono floride su una base di illegalità che è quella che si ricordava. Assolutamente. Secondo me denunciare questi fatti fa bene, è un atto anche di onestà verso tutti, insomma. Assolutamente, ma infatti è per questo che noi siamo qui a parlarne. Lei, Cisterna, sa che da anni siamo impegnati in questo, io personalmente, la radio e il gruppo, quindi la nostra battaglia di legalità la portiamo avanti con ogni mezzo e con ogni arma legale, voce e carta. Questi sono i nostri mezzi. Cisterna, io vorrei tornare ancora su questo messaggio che passa, perché come diceva Gesualdo Bufalino, una cosa io ripeto spesso: la mafia la si sconfigge con un esercito di insegnanti, di formatori. È quello il messaggio che deve passare: la formazione e la cultura sconfigge la mafia. Allora, ma che paese è il paese nel quale un istituto di credito, ma perché no anche le altre istituzioni, si sentono garantite se a garantire è un boss, e si sentono invece prive di paracadute se a garantire è lo Stato, il comune, la regione? Ma questa è la dissolvenza di uno Stato, di una democrazia, Cisterna. Beh, questo è il fare i conti con una realtà che purtroppo, ripeto, ha radici antiche. Noi abbiamo naturalmente una cultura che vuole conservare l'impresa, vuole consentire all'impresa di sopravvivere, abbiamo il problema dei livelli occupazionali. In altri paesi questa logica conservativa non c'è, l'impresa mafiosa viene chiusa e basta, e una volta che viene chiusa l'impresa non si sta a discutere che il licenziato venga comunque messo alla porta. In Italia abbiamo queste licenze occupazionali che sono anche importanti, altrimenti passa la storia. È certo che la mafia dà lavoro e lo Stato assolutamente lo toglie, e quindi abbiamo il problema di regolare queste questioni in maniera talvolta difficoltosa. L'impresa, le banche vogliono denaro che gli spetta. Certo, nel certo. momento in cui non lo vedono arrivare, chiudono. Certo. È chiaro che è anche vero, devo dire la verità, che negli ultimi tempi si nota una sensibilità diversa, che anche il legislatore ha accentuato. E qui chiudo, vorrei ricordare che il decreto sull'agenzia prevede dei beni confiscati, prevede l'obbligo per le banche di dimostrare la propria buona fede quando abbiano concesso queste ipoteche, questi mutui e questi prestiti. Assolutamente. Cosa molto importante. Bene, proprio mentre stavamo andando in onda è giunta sul filo del traguardo una buonissima notizia, vale a dire che il tribunale di Reggio Calabria durante l'interrogatorio di Larizza ha riconosciuto le buone ragioni di Larizza, quindi lo ha confermato nel suo incarico di amministratore giudiziario di beni confiscati all'Ndrangheta in quella regione, nella regione Calabria. Bene, chiudiamo quindi la puntata con un'ottima notizia, grazie regia a Paolo Corleoni e in studio ad Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi augura un buon fine settimana.